Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Raggi risponde ai cittadini per strada, non mollo, dice loro. Dagli azzurri che hanno vinto le medaglie a Rio, lettera alla sindaca, non spegnere i nostri sogni, sostieni le Olimpiadi nella capitale. Terremoto, 7 mesi per le casette, conferma il capo della protezione civile Curcio, i primi sfollati iniziano a spostarsi nell'attesa delle nuove costruzioni. Manovra, la flessibilità potrebbe valere tra gli 8 e i 10 miliardi, verso l'addio agli studi di settore l'introduzione degli indicatori di affidabilità. Fischi al presidente brasiliano nel giorno del via alle Paralimpiadi, prosegue intanto la serie di ritratti che stiamo dedicando ai nostri atleti. A Venezia ha presentato il documentario di Michele Santoro dedicato alla guerra tra bande di ragazzini a Napoli. In proiezione l'ultimo film italiano in concorso, quello di Giuseppe Piccioni. Migranti, distribuzione sul territorio ancora sotto accusa, proteste della Sardegna. In un comune un sindaco minaccia di dimettersi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, oppure c'è il nostro canale Telegram per le anticipazioni sulla trasmissione, telegram.me/effettogiorno. Oggi non siamo riusciti ad aggiornarlo per qualche problema tecnico e ce ne scusiamo. In apertura dunque ancora la vicenda dei 5 Stelle a Roma, le ultime con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno, possiamo parlare di tregua oppure di normalità ritrovata, Simone, a seconda delle opinioni all'interno del Movimento 5 Stelle. Dopo la convulsa giornata di ieri e la manifestazione di Nettuno, di fatto oggi in Campidoglio si ostenta tranquillità con la sindaca Raggi che alla cerimonia Porta San Paolo in occasione dei fatti dell'8 settembre del 43 ha risposto più volte "io non mollo" a diversi cittadini. I rapporti restano indubbiamente tesi tra la Raggi e i vertici del Movimento. Vada avanti ma noi vigileremo, ha detto Grillo, ma un chiarimento è ormai necessario anche nel cosiddetto direttorio dopo le evidenti spaccature manifestate per la vicenda Muraro. I malumori maggiori si registrano tra i senatori pentastellati contro quelli che vengono definiti dei ragazzini immaturi che rischiano di portare il Movimento alla deriva. La senatrice Lezzi sponsorizza la creazione di un organismo di 30-40 persone. Torna alla carica anche il sindaco di Parma Pizzarotti che dice serve una seria autocritica. Quanto agli sms e alle mail di Di Maio pubblicate ieri dai giornali, la senatrice Taverna al centro dei sospetti replica e dice non li ho dati io, sono pronta a querelare. Altro nodo, quello delle Olimpiadi. Cara Raggi, dia impulso ai nostri sogni e sostenga la candidatura di Roma 2024, gareggiamo insieme per conquistare una speranza. Sono queste, Simone, alcune delle frasi che tutti i medagliati dell'Italia Team di Rio hanno scritto proprio alla Raggi. Da Roma è tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo per questo aggiornamento sulle vicende del Movimento 5 Stelle e sulle vicende della Raggi. Oscar Giannino ha intervistato Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, adesso speso tra l'altro dai 5 Stelle. Sentiamo. Da una parte non sono sorpreso, ma non avrei mai pensato in un problema di queste proporzioni, in queste tempistiche. Ma rispetto alla sorpresa più grande stamattina è quella invece del discorso di ieri sera, del come non si è chiarito nulla. Cioè, bagno di folla, video montato bene con parola chiaro 2 o 3 volte, ma di chiaro non c'è niente, nessuna risposta sul perché si sono dimessi degli assessori, nessuna risposta perché da luglio da parte della Raggi, del direttorio, di tutti, si è detto il mondo è cattivo, noi siamo quelli buoni, andiamo avanti. Io penso che non sia corretto. Il tema chiarezza, invece, il tema del dare delle risposte, io penso che sia doveroso. Di Maio, io penso non possa, anche rispetto a quello che è stato fatto a noi, lavarsene con un forse abbiamo fatto un errore di valutazione. Ok, quindi l'hai fatto anche con noi, quindi l'hai fatto diverse volte. Così dunque Pizzarotti. A proposito di politica, si terrà il 15 settembre alla Festa dell'Unità di Bologna il confronto fra il segretario del PD Matteo Renzi e il presidente dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, Carlos Muraglia, dopo le polemiche delle settimane scorse con l'Associazione Nazionale Partigiani che si è schierata per il no al referendum e ovviamente il governo che è per il sì. Ne ha dato notizia di questo il parlamentare bolognese Andrea De Maria, responsabile formazione nella segreteria del PD. Sarà giovedì 15 settembre alle 21.30. A moderarlo sarà il giornalista Gad Lerner. C'è attesa per l'incontro tra gli inquirenti italiani e quelli egiziani sul caso Regeni. L'appuntamento è nel pomeriggio alla scuola di polizia di via Guido Reni. La struttura è la stessa che lo scorso 7 aprile ospitò il primo incontro fra inquirenti, il cui fallimento spinse la Farnesina a ritirare il nostro ambasciatore al Cairo. A rappresentare l'Italia saranno il procuratore capo di Roma Pignatone e il sostituto Colaiocco, mentre la delegazione egiziana sarà guidata dal procuratore generale Nabil Ahmed Sadek. Il vertice proseguirà anche domani. Gli inquirenti italiani si aspettano che venga consegnato loro il materiale chiesto da mesi, a partire dai dati di alcune celle telefoniche che sarebbero utili per ricostruire le ultime ore di vita del giovane ricercatore. In cambio sarebbero disposti a consegnare i risultati degli esami sul suo PC. Dalla famiglia di Giulio arrivano nel frattempo nuove, crude rivelazioni sui risultati dell'autopsia effettuata in Italia, che hanno evidenziato lettere e strani segni incisi sul corpo del ragazzo, quasi un messaggio in codice, una nuova conferma delle torture alle quali fu sottoposto dai suoi aguzzini e che smentisce una volta in più l'ipotesi della rapina finita male sostenuta dai magistrati egiziani. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo al punto sulla manovra. Continua il lavoro del governo sulla manovra da 25 miliardi per il prossimo anno. Pensioni, scuola, lavoro, meno tasse per le imprese sono alcuni dei capitoli che entreranno nella legge di bilancio 2017. La manovra dovrebbe essere pronta per metà ottobre. Sul fronte fiscale scompariranno gli studi di settore. Il Ministero del Tesoro ha infatti deciso di sostituire questi strumenti, nati nel 1993, ma che mai hanno funzionato bene. Oggi intanto c'è attesa per le decisioni della Banca Centrale Europea. Il presidente Mario Draghi, al termine del Consiglio direttivo riunito da ieri, potrebbe annunciare l'estensione del quantitative easing, l'acquisto di titoli di Stato e privati, oltre marzo 2017 per stimolare l'economia che ristagna. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Avete già sentito nel servizio di Teresa Trillò questa ipotesi di addio agli studi di settore, che è stata indicata con una nota dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ieri. Ne parliamo con Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Giovanni, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Allora, dunque, si preparano a sparire questi studi di settore che prevedevano che le persone, in base alla collocazione geografica e una serie di altri parametri, avessero un ricavo di congruità a cui uniformarsi. A che cosa si sta pensando? Si sta pensando a sostituirli con un indicatore di affidabilità. Sostanzialmente funzionerà come una sorta di termometro della fedeltà fiscale. Dovrebbero essere inseriti un numero ridotto di dati e il risultato che emergerà sulla base di alcuni indicatori che sono in via di definizione, ad esempio il valore aggiunto per addetto, il reddito per addetto, tanto per farne qualche esempio, costituirà in qualche modo un indice di quanto quel contribuente sia affidabile sulla base dei ricavi dichiarati. Quindi in qualche modo da questo indice di affidabilità si potrà poi procedere ad accedere ai vantaggi del regime premiale, che è un regime che è stato introdotto da qualche anno e che consente ad esempio dei vantaggi sull'abbassamento dei termini di accertamento, quindi delle modalità di controllo, che in qualche modo garantisce più scudi dai controlli dell'amministrazione finanziaria. È soprattutto un percorso che tende a considerare sulla base dei dati statistici già in possesso dell'amministrazione finanziaria una storia un po' più lunga di quel tipo di contribuente, di modo da chiedergli meno dati e garantire una certa stabilità della sua posizione tributaria. Quindi insomma è il fisco che in qualche modo si fa garante di recepire le informazioni già in possesso e di chiederne meno al contribuente, e soprattutto è un atteggiamento tra virgolette meno inquisitorio ma più collaborativo, perché proprio il passaggio chiave è questo: non più strumento di controllo e di accertamento, ma strumento per accompagnare il contribuente verso un adeguamento spontaneo, quello che in gergo tecnico si chiama compliance. Giovanni, molto brevemente, si è detto, il MEF ha parlato di un abbandono graduale degli studi di settore, e voi oggi sul quotidiano scrivete: potrebbe essere tutto accelerato con la manovra, con la legge di bilancio, con la legge di stabilità. Sì, nella legge di bilancio potrebbe esserci in qualche modo il macro quadro per poi consentire questo percorso graduale, quindi i tecnici stanno lavorando per appunto definire il quadro di riferimento. Nella legge di stabilità si definirà il percorso, ma quello sarà appunto il veicolo attraverso cui accelerare questa riforma. Ti ringrazio, grazie a Giovanni Parente del Sole 24 Ore per questo chiarimento. Altri dettagli li trovate sul quotidiano Oggi in Edicola, ovviamente. Oggi il punto sul terremoto del capo della Protezione Civile Curcio. Oggi è il 14° giorno dall'evento e si sta continuando a scavare. In questo momento c'è un'area in Amatrice in cui si sta ancora scavando, per noi è ancora soccorso. 14 giorni dal sisma, il capo della Protezione Civile Curcio fa il punto in Commissione Ambiente della Camera. 295 morti, 4.500 sfollati ospitati nelle tendopoli, ai quali, dice, offriamo soluzioni alternative in attesa delle casette che arriveranno tra 7 mesi. Il contributo di autonoma sistemazione, 200 euro a persona fino ad un massimo di 600 per nucleo familiare, sistemazione in alberghi o residence, ospitalità in loco, magari nelle seconde case rimaste in piedi previa verifica di agibilità, un percorso che sarà comunque lungo. Devo testimoniare che veramente, perlomeno in questa prima fase, perché siamo ancora in una primissima fase, perché ci attende un percorso molto molto lungo, abbiamo dato come paese una testimonianza di una grandissima cuore, grandissima solidarietà, grandissima capacità tecnica. Intanto ad Amandola, in provincia di Fermo, comincia stasera lo sgombero delle tende, prime sistemazioni in casa in affitto e all'ostello. Gli sfollati del paese sono circa 300, al momento ospitati in 18 tende al palazzetto dello sport. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E Stefano Petrucci, sindaco di Accumoli, sarà con noi più tardi proprio anche per parlare della sistemazione delle persone in questo momento nel quale il freddo sta arrivando. Ci occupiamo adesso di un po' di numeri, iniziando da quelli del rapporto consumi COP 2016. Sentiamo. Più vecchie, più soli, più poveri e disuguali, ma anche più green, più smart e più attenti ai cibi salutari sono i nuovi italiani fotografati dal rapporto Consumi COP 2016, giunto quest'anno alla sua 35esima edizione. Figli della recessione, dopo Romania e Grecia, l'Italia è il paese con il numero più alto di famiglie in difficoltà. Sullo sfondo di una ripresa che fatica a decollare, i consumi degli italiani sono sempre più attenti alla sostenibilità. Si affidano a internet per risparmiare fino a 1.400 euro a famiglia all'anno e sono entusiasti della sharing economy. Il 5% usa le piattaforme per la condivisione di beni e servizi. Riempiono il carrello della spesa con cibi light, ingredienti antichi riscoperti, due su tutti lo zenzero e la curcuma, rispettivamente più 141% e più 93% in un anno il dato delle vendite, e poi i prodotti bio ormai di massa e cibi etnici, il boom dei quali prosegue più 8%. Cibi etnici sì, ma italiani poco aperti all'immigrazione. Nel rapporto COP il nostro paese è fanalino di coda in Europa per desiderio di aiutare gli immigrati. Siamo anche i più euroscettici, al primo posto insieme agli inglesi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il Sole 24 Ore. Altri numeri, quelli dell'estate sulle strade italiane. Leonardo Rossi, buongiorno. Buongiorno, sì, diciamo che anche se non è il dato ottimo del 2013, anno in cui si è registrato il punto minimo dei decessi in strada, sia strade ordinarie sia autostrade, il 2016 è l'anno migliore da un biennio oggi, con 362 morti. Positivi quindi, seppure tristi, i numeri sulle vittime della strada fornite oggi dalla Polizia Stradale e dall'Arma dei Carabinieri, con una flessione dello 0,6% rispetto allo scorso anno, e si sono registrati 91 vittime in meno rispetto al 2015. Il numero degli incidenti registrati sono in diminuzione, seppure sensibile, con una flessione dell'1,2% rispetto allo scorso anno. Sulla viabilità ordinaria, quindi sulle strade in città, tutto ciò che non è autostrada, la diminuzione risulta meno pesante, con solo lo 0,2% di diminuzione. Una nota particolare che la Polizia Stradale ci ha tenuto particolarmente a far sapere è che Foggia, con i suoi 152.000 abitanti, ha registrato lo stesso numero di vittime della strada della capitale Roma. Da Roma è tutto, vi lascio la linea. Grazie Leonardo Rossi per questo aggiornamento. Con la cerimonia di apertura allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro ha preso il via ufficialmente la 15ª Paralimpiade estiva, la prima nella storia in continente sudamericano. 4.500 atleti in rappresentanza di 176 nazioni hanno sfilato all'interno dello storico impianto della città carioca. La delegazione italiana è stata guidata dalla portabandiera Martina Caironi. Fora Temer, fischi e cori come sentite di sottofondo contro il presidente brasiliano Michel Temer, insediatosi da una settimana al posto di Dilma Rousseff, messa sotto inchiesta dopo il via libera del Senato. Ma la vera notizia è stata l'iniziativa polemica della Bielorussia, che ha deciso di sfilare anche con la bandiera della Russia, esclusa dai giochi per l'ormai nota vicenda del doping di Stato. Paralimpiadi di Rio, come si diceva appunto, che sono state aperte ufficialmente, prosegue il nostro viaggio per incontrare i nostri atleti. Oggi vi presentiamo una schermidrice davvero speciale. La scherma la ama da sempre, da quando l'ha scoperta, da appena 5 anni. E la meningite, che a 11 anni l'ha costretta a subire l'amputazione di tutti e quattro gli arti, ha cambiato il suo corpo, non la sua passione. Da allora, anzi, da sport individuale, la scherma, spiega Beatrice Bebe Vio, è diventata uno sport di squadra. Di più, uno sport di famiglia. Secondo me, quando succede qualcosa a una persona, se ha una bella famiglia dietro, alla fine non colpisce solo quella persona, ma colpisce, diciamo, tutto il gruppo. Noi siamo i 5 in famiglia, quindi quando ho avuto la malattia io è come se l'avessimo avuta tutti. E quindi siamo sempre stati molto uniti e l'obiettivo di uno diventava l'obiettivo di tutti. E se non fosse stato per i miei genitori, per i miei fratelli, non penso sarei mai tornata, non sarei manco uscita all'ospedale. Però comunque la scherma e tutte queste cose qui, anche l'associazione, sono tutte cose fatte in team, diciamo. Proprio insieme alla sua famiglia, Bebe ha fondato una onlus e continuato a tirare di scherma, in carrozzina e, unica a livello paralimpico, senza il braccio con cui tiene l'arma. Così Bebe ha vinto in Coppa del Mondo e conquistato l'oro europeo e mondiale. Dopo essere stata tedofora a Londra 4 anni fa, affronta a Rio, a 19 anni, la sua prima Paralimpiade. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E domani e nei prossimi giorni proseguiremo con i ritratti dei nostri atleti. Intanto andiamo a Venezia con la nostra inviata alla Mostra del Cinema, Marta Cagnola. Ciao Marta, cosa ci racconti oggi? Ciao Simone, intanto ti racconto della reazione all'ultimo film italiano in corsa per questa 73esima edizione del Festival di Venezia, a questi giorni, di Giuseppe Piccioni, breve e tiepido applauso. Questa è la definizione ufficiale della reazione alla proiezione stampa. Il film racconta, non senza fatica, un viaggio fisico e simbolico di quattro ragazze che si devono confrontare con la loro maturità. Insomma, un tema ricorrente nei film italiani, ne abbiamo già parlato in questi giorni, nei film di questa mostra, anche se ovviamente declinato in toni molto diversi. In concorso anche Paradise di Andrei Konchalovsky, piaciuto molto, già dicono si possa candidare per qualche premio. Poi torna fuori concorso Natalie Portman, questa volta con Lily Rose Depp, e il cognome non è a caso, nella storia d'epoca Planetarium, c'è tanto paranormale, ma il grande protagonista di oggi, concedetemelo, è Jean-Paul Belmondo, che alle 14 riceverà il Leone d'Oro alla carriera, appena incontrato la stampa, è molto anziano e affaticato, ma è sempre magico. Ieri però vi avevo accennato che si sarebbe parlato molto di Michele Santoro. Ecco, non sapevo ancora che si sarebbe parlato molto dei suoi sandali, questo non potevo immaginarlo, ma l'abbiamo incontrato e gli abbiamo chiesto del suo documentario Robin Hood. Finisce il potere dei vecchi boss, che sono poi Giuliano di Forcella, quelli che erano i boss che dominavano il centro storico napoletano, e curiosamente non prende il loro posto un nuovo clan, ma queste bande di ragazzi giovanissimi che vanno da 16, 17, 18 anni. Ecco, quindi questo è un punto interessante, questo carattere ribellistico di questa nuova camorra, giovane perché è fatta di ragazzi spietati, cinici, capaci di ammazzare anche senza una ragione molto definita. Se gli passa in mente il pensiero di spararti, ti sparano e basta. E direi che da Venezia è tutto, Simone. Ti ringrazio, grazie a Marta Cagnola. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. E lo inizieremo andando alla storia che racconta oggi Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. Ed è una storia che arriva da Crotone, dove promosso in Serie A bisogna ampliare lo stadio. Ebbene, si sta pensando di farlo sostanzialmente con una colata di cemento sopra un'area archeologica. Fatto che era già successo in passato quando il Crotone era andato in Serie B. Colate di cemento che vengono definite provvisorie e che poi non sono mai tali. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato ancora della vicenda della giunta 5 Stelle di Roma, abbiamo parlato del terremoto, poi ci torneremo più avanti perché sentiremo anche il sindaco di Accumoli, abbiamo parlato della manovra e dell'addio che si sta preparando per gli studi di settore e l'introduzione degli indicatori di affidabilità, abbiamo parlato della mostra del cinema di Venezia e abbiamo parlato di Paralimpiadi. Prima di iniziare il nostro giro per l'Italia, fatemi ringraziare l'ascoltatore Max che dice che si è commosso sentendo la storia e le parole della nostra schermidrice. È esattamente per questo che stiamo raccontando tutto questo, per farvi sentire, sembrerà banale, la forza d'animo di queste persone che poi vanno alle Olimpiadi. Continueremo a raccontarvi queste storie anche nei prossimi giorni. Iniziamo dunque il nostro giro per l'Italia e lo vogliamo iniziare da Crotone. La storia la racconta oggi con un pezzo che inizia in prima pagina e poi prosegue a pagina 21 interamente Gian Antonio Stella, molto bravo spesso a scovare queste vicende e che ci piacciono molto perché sono vicende locali ma che hanno in realtà un respiro nazionale, ed è la vicenda dello stadio di Crotone, lo stadio del Crotone, che era sostanzialmente già stato ampliato quando raggiunse lo storico traguardo della Serie B e adesso si progetta un nuovo ampliamento, come si diceva, con l'arrivo in Serie A. Però queste colate di cemento praticamente vanno a toccare quello che è quelli che sono i resti di uno dei centri più importanti della Magna Grecia. Abbiamo in linea con noi Margherita Corrado, che è un'archeologa che si è occupata di tutto questo e che sta conducendo una serie di battaglie proprio nel crotonese su questi temi. Buongiorno e benvenuta, Corrado. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Allora, ci spiega la prima colata di cemento, quella per la Serie B, che cosa è andata a coprire? Allora, l'ampliamento della curva nord, che doveva arrivare a 1000 posti, ha richiesto si estendesse la struttura preesistente su un settore dello stadio che corrisponde ad un importante edificio pubblico di Croton, perché ci troviamo in prossimità dell'area che fu dell'Agorà, quindi dello spazio pubblico principale della polis. E quindi in quella occasione una parte della colata di cemento, della piastra armata, fu realizzata senza sorveglianza della soprintendenza sui livelli archeologici. Poi, dopo che invece la cosa si riseppe, la soprintendenza eseguì degli scavi, ma anche sul settore dove furono messi in luce i resti. Cioè, mi scusi Corrado, giusto per chiarire, non fu chiesto niente alla sovrintendenza, cioè si fece questa colata di cemento, si realizzò questa estensione della curva e poi solo dopo, diciamo così, quasi per caso, la sovrintendenza lo venne a sapere. Sì, i lavori partirono senza che la soprintendenza fosse avvisata, nonostante che dal 1981 tutta l'area dello stadio è sottoposta a vincolo, diretto e indiretto, perché gli scavi degli anni 70 hanno dimostrato appunto che lo stadio realizzato negli anni 40 era sorto su un settore dell'abitato antico. Sì. Ok, e quindi insomma si fece questa cosa, la sovrintendenza la venne a sapere, che cosa fece? Ormai non c'era più niente da fare, in sostanza. Allora, dove la piastra armata era già stata realizzata non c'era nulla da fare, a meno che non si volesse demolirla, e quindi fu scavato tutto intorno per capire cosa si era andato ad intaccare, e anche questa zona che fu oggetto di scavo è stata poi a sua volta tombata sotto una piastra di cemento che fu detta all'epoca removibile provvisoria. E che area era dell'antica città di Crotone? Siamo proprio nel cuore della città, tant'è vero che le dicevo che siamo a ridosso dell'Agorà, quindi dello spazio pubblico per eccellenza, e infatti uno scarico di colonne di materiale architettonico che è finito in parte sotto la piastra di cemento alla quale facevo cenno appartiene ad un edificio porticato sicuramente di carattere pubblico e tra i più importanti della città. Tra l'altro voglio leggere agli ascoltatori per dargli l'idea, perché io l'ho trovato incredibile, Gian Antonio Stella, immagino ci siano tantissimi crotonesi che non sono d'accordo con tutto questo, ci sono molti messaggi riportati in questo servizio di Gian Antonio Stella cavati dai social network, che si rivolgono anche a lei, no? Fate gli scavi che trovate na capi cazzu, ma sa Corrado ha trovato la tomba di Tutankhamon, non è mettendo i bastoni tra le ruote, è l'unica cosa buona che abbiamo, che risolveremo qualcosa, e così via. Fatto sta che la nuova estensione dello stadio andrebbe a toccare un'ulteriore parte dell'Agorà. Esatto, è stata autorizzata il 19 luglio scorso l'operazione di ampliamento della tribuna ovest e della curva sud, questa volta che è l'unica che si trova in una direzione rispetto alla quale è ancora possibile costruire, ma in realtà essendo area vincolata, come dicevo, a vincolo diretto, il codice dei beni culturali e del paesaggio vieta la costruzione, quindi il Ministero ha autorizzato qualcosa che va contro la sua legislazione. Cioè l'ha autorizzato il Ministero questo? Sì, certo, il soprintendente, il dottore Pagano, ha autorizzato la realizzazione al comune, la realizzazione di queste di questo ampliamento, perché non si parla di scavo e di costruzione, ma di posizionamento sul terreno già esistente di opere che vengono definite leggere, completamente removibili, senza però tenere presente che per ancorare questa tribuna leggera è stato necessario, e lo hanno fatto a partire dall'8 agosto, quindi è già realizzato, è stato necessario appunto stendere una nuova piastra armata potentissima che ha tombato i resti sottostanti. E c'è possibilità di fare ricorso su questo? Lei lo sta facendo? Se ne sta occupando qualcuno? Qualche comitato dei cittadini? Sì, io faccio parte di una delle due associazioni che ha passato, le dico, tutto agosto a scrivere al Ministero in tutte le sue diramazioni per segnalare che è inconcepibile che il Ministero autorizzi una cosa del genere, anche perché al di là della vicenda crotonese questo diventa un precedente che i fautori della mala tutela possono spendere in tutta Italia. La ringrazio, grazie Margherita Corrado, archeologa, per essere stata con noi. Magari nei prossimi giorni l'approfondiremo questa vicenda e magari proveremo anche a sentire il sindaco, perché no, anche il sovrintendente. Angelo Demetrio Cherchi è un sindaco in linea con noi, è un sindaco sardo per l'esattezza di Suni. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno anche a voi. Ed è qua che prosegue il nostro giro per l'Italia. Come sapete ci stiamo occupando molto della questione dei migranti, non... perché poi qualche ascoltatore ci ha scritto sulla nostra pagina dicendo, qualche ascoltatore anche immigrato ci dice, piantata di prendervela con i migranti. Non ce la prendiamo con i migranti, ce la prendiamo con un sistema di accoglienza che non funziona. Tant'è vero che in chiusura dell'anno scorso, della stagione precedente di Effetto Giorno, abbiamo sentito anche qualcuno al Ministero dell'Interno che ci dicesse come si sta cercando di risolvere la cosa. Da quel che ho capito, in Sardegna c'è proprio in giro una sorta di ribellione della quale voi siete un po' la punta, per così dire, no, Cherchi? Diciamo così. Io vorrei sgombrare subito il campo da discorsi di discriminazione razziale, scarso senso di accoglienza o quant'altro. Noi siamo un paese che ha sempre dato molto al territorio in termini di solidarietà e volontariato, e sono anche orgoglioso di poterlo dire. Oggi noi diamo ospitalità a 19 cittadini stranieri, 6 dei quali sono extracomunitari, perfettamente integrati con la collettività. Suni però è un paese, come tanti paesi della Sardegna, che ha vissuto situazioni estremamente difficili dal punto di vista dell'ordine sociale e che oggi vive, come tanti paesi, l'emergenza sociale, e noi sindaci, sempre in prima linea, lavoriamo non poco per dare insomma serenità alla nostra gente. Il punto è un altro: noi non vogliamo subire imposizioni in questo campo, soprattutto se questo serve a soddisfare appetiti economici di imprenditori e organizzazioni che vogliono fare business sulla pelle e sulle disgrazie altrui. Questo è il punto. Questo è lo snodo, perché quello che dice lei è che, come dire, da quel che ho capito, dato che c'è una cooperativa, un'impresa, adesso non lo so esattamente, che si è offerta, no, per accogliere altri 34 migranti, dice: io questa cosa non la voglio nel mio comune. Non è che non la voglio, è diversa la cosa. Noi spesso si adottano sistemi, anche queste cooperative adottano sistemi che pensavamo dimenticati nel tempo e che invece tornano prepotentemente di moda. Non è corretto, non è giusto e non è neanche umanamente accettabile, e se ciò dovesse accadere noi ci facciamo da parte. Insomma, non cosa, intende per metodi che pensavamo dimenticati? Non si possono stipare 50 persone in 5 appartamenti senza avere spazi adeguati per il tempo libero e quant'altro, insomma. Mi spiega una cosa, sindaco, ma il prefetto, perché poi alla fine è il prefetto, no, che decide la distribuzione, che assegna gli appalti e così via, il prefetto queste cose non le sa, cioè non sa dove va, dove si vanno a mettere queste persone. Non sia una questione di prefettura, la prefettura con noi ha un'interlocuzione quotidiana, quindi siamo informati di tutto e per tutto e abbiamo anche una stretta collaborazione, però il sistema è questo, ecco, il sistema è il sistema che non è corretto. Noi siamo diventati giocoforza, esperti in emergenze, e non ci tiriamo indietro neanche questa volta. Non vogliamo però essere, noi vogliamo essere protagonisti, farlo assieme. con un sistema che sia però umanamente sostenibile. Che stia funzionando. Su questo, tra l'altro, si sta lavorando, perché il Ministero dell'Interno si è incontrato con l'ANCI, si sta cercando un metodo di distribuzione un po' più corretto ed efficace delle persone che arrivano. Voi avete tra l'altro minacciato le dimissioni, no, Sindaco? Noi abbiamo adottato una delibera all'unanimità anche con la opposizione. Se non verranno rispettati questi argomenti, insomma, di cui stiamo discutendo, noi ci faremo da parte, l'emergenza la gestirà qualcun altro. Chiaramente. La ringrazio, grazie al sindaco Angelo Demetrio Cherchi, appunto sindaco di Suni, e siamo in provincia di Oristano, in Sardegna, che è uno dei punti nei quali si concentra il problema, che, lo ripetiamo ancora una volta, non è il problema dei migranti in sé o dei profughi in sé, ma il problema di come viene gestita l'accoglienza e la distribuzione dei profughi e dei migranti sul territorio italiano. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede in borsa come sempre, e poi sentiremo un altro sindaco, un sindaco che vive un problema drammatico, che è quello del terremoto. È il sindaco di Accumoli, che è uno dei tre comuni più colpiti, Accumoli, dalla quale sono i primi sfollati, sono partiti ieri per andare a San Benedetto del Tronto in attesa che siano costruite le case, le abitazioni provvisorie. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: in primo piano ancora le vicende della giunta di Roma, Raggi risponde ai cittadini per strada e dice non mollo. Intanto nuove acquisizioni di documenti sono state effettuate questa mattina, notizia di poco fa, dai carabinieri del NOE nell'ambito di uno dei filoni dell'indagine sui rifiuti, quella che vede coinvolta l'assessore all'ambiente Paola Muraro. Terremoto, 7 mesi per le casette, lo conferma il capo della Protezione Civile Curcio, i primi sfollati intanto iniziano a spostarsi nell'attesa. Manovra alla flessibilità potrebbe valere tra gli 8 e i 10 miliardi, verso l'addio agli studi di settore e l'introduzione degli indicatori di affidabilità. A Venezia accoglienza tiepida per l'ultimo film italiano in concorso, quello di Giuseppe Piccioni, presentato anche il documentario di Michele Santoro su Napoli, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, poi il nostro Mario Platero, come sempre in questi giorni, la nostra ricognizione, chiamiamola così, nei luoghi colpiti dal terremoto affinché non ce li si dimentichi. Abbiamo Stefano Petrucci, sindaco di Accumoli, che è uno dei comuni più colpiti. Sindaco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, ieri sono iniziati i primi spostamenti dei suoi concittadini, no? Verso San Benedetto del Tronto, se ho capito bene. Sì, ieri abbiamo aperto questa strada su San Benedetto del Tronto. Grazie all'amministrazione comunale di San Benedetto, una persona del sindaco che ci ha dato questa disponibilità a poter far alloggiare i nostri concittadini nelle strutture. Tutto questo in attesa che si costruiscano le casette provvisorie, quelle di legno, no? Sì, che comunque occorrerà un periodo dai 5 ai 7 mesi per la realizzazione di questo. E nel frattempo, in sostanza, il paese rimarrà vuoto? No, vuoto no, perché comunque ci sarà, oltre al presidio delle forze dell'ordine e delle forze armate, anche tutte quelle aziende agricole, le attività produttive che rimarranno sul posto comunque a seguitare le loro attività. Che temperatura fa oggi, sindaco? Che temperatura fa di notte adesso? Adesso le minime si sono un po' alzate perché comunque è piovuto, altrimenti siamo arrivati i primi giorni proprio a ridosso dell'evento a 5 gradi, era comunque agosto, quindi è pensabile dover rimanere dentro le tende per un periodo lungo. Lungo, certo, i prossimi mesi possono essere da questo punto di vista molto duri. Che cosa si sta facendo adesso, sindaco? Cerchiamo di raccontarlo ai nostri ascoltatori che ci sentono appunto e che non possono vedere perché siamo una radio. Facendo tutte quelle attività propedeutiche al censimento dei danni, l'individuazione delle aree per poter mettere i moduli alloggiativi provvisori, una volta collocata la popolazione, stiamo recependo tutte le domande per il contributo di autonoma sistemazione di chi non andrà in albergo. Installeremo a breve questi moduli dei container per le attività produttive delle aziende agricole e poi ecco, sistemeremo la popolazione provvisoriamente negli alberghi e per poi tornare dopo la realizzazione dei moduli invece quelli che ci traghetteranno fino alla ricostruzione, diciamo verranno installati contestualmente, verranno fatte le verifiche, i puntellamenti, le demolizioni dei fabbricati inagibili per poi iniziare la ricostruzione. Delle proprie di borghi. Certo, allora come i nostri ascoltatori ricorderanno, Accumoli ha pagato un tributo di 11 vittime, comprese le frazioni appunto del paese. Avete invece un'idea, Sindaco, già dei danni proprio quantificati, per così dire, anche in termini economici, cioè la ricostruzione quanto potrebbe costare? Guardi, intanto ricordiamo i nostri cittadini che ci hanno lasciato a seguito di questo evento e questa è la cosa più triste. Il resto sicuramente lo ricostruiremo. Rimarrà dentro di noi questo enorme dolore per la perdita dei nostri concittadini. Oggi fare una stima dei danni è prematuro perché sicuramente occorreranno milioni e milioni di euro. Noi speriamo appunto della vicinanza dello Stato e della Regione in questo e confidiamo anche in qualche donazione dei privati. Colgo appunto l'occasione per dire che nel sito ufficiale del Comune di Accumoli c'è l'IBAN per eventuali donazioni da parte dei privati. Questo ci farebbe molto piacere perché comunque non so fino a quanto i contributi statali potranno essere sufficienti a ricostruire tutte le infrastrutture, le opere pubbliche e le abitazioni private in questa grande tragedia che ha lasciato. La ringrazio, grazie a Stefano Petrucci, sindaco di Accumoli, al quale va il nostro saluto, il nostro abbraccio e ovviamente un augurio di buon lavoro per mesi che saranno impegnativi, duri e anche difficili da un punto di vista emozionale. Pensate al fatto che Accumoli è un paese di 670 abitanti nel quale sostanzialmente si conoscono tutti e queste 11 vittime chiaramente erano parte di una, che possiamo definire una grande famiglia come sempre in questi piccoli paesi. Adesso ci fermiamo. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.